primo maggio è noto che USB ha organizzato una giornata in Piazza dell'Unità, come sempre negli ultimi anni. Il titolo di quest'anno dell'iniziativa era Abbassare armi, alzare i salari. Abbiamo avuto, diciamo, lo svolgimento della giornata è stato tranquillo, è stata una bella giornata ricca di iniziative. Chiaramente siamo in un clima in cui la guerra in Ucraina tiene banco. Abbiamo organizzato una tavola rotonda sulla questione del disarmo, del pacifismo. Quello che abbiamo verificato è che durante la giornata alcuni soggetti, tra i quali alcuni di quelli che erano intervenuti provocando il 23 aprile scorso, si sono aggirati a mo' di ronda. Il tema è che a chiusura della iniziativa della giornata, con i nostri compagni del circolo Gramma, abbiamo verificato il fatto che ci sia stato un tentativo di sfondare la porta del Burnout, che è uno dei bar che ci supporta, che era promotore dell'iniziativa del 23, che era in piazza il primo maggio. Ancora in più, verso le 2, le 3 di notte, abbiamo verificato che sono state squarciate le ruote della macchina di alcuni nostri compagni, evidentemente seguiti fin sotto casa, individuati. Non è un bel segnale, non è un bel episodio quello che oggi commentiamo. Diciamo che da tempo stiamo portando all'attenzione, già dal 23 aprile, all'attenzione della città, che però sembra non raccogliere troppo le indicazioni, il fatto che il clima che si registra nella comunità ucraina è quello di mal tollerare quello che è nel DNA poi invece della città di Bologna, che è, diciamo, una memoria antifascista, militante, convintamente pacifista rispetto alle posizioni sulla guerra e che si pone in aperta provocazione. Se fosse una questione di dialettica non ci sarebbe nulla di male a confrontarsi, a scambiare opinioni. Sul piano della violenza, della provocazione, della intimidazione, riteniamo sia inaccettabile questa posizione e quindi, insomma, avvisiamo tutte e tutti del fatto che questa guerra provoca anche non solo un dibattito politico alto, ma anche nelle strade, diciamo, questa condizione di estrema polarizzazione. Quindi il tema è aprire gli occhi, rendersi conto che il dibattito sulla guerra non polarizza solo sul piano alto, ma polarizza anche tra le strade. Per recuperare l'antifascismo significa essere dialettici, significa anche però essere in grado di verificare il fatto che queste cose non debbano succedere nella nostra città. Nel comunicato con cui convocate la conferenza stampa di oggi puntate il dito anche contro la legittimazione e lo sdoganamento che le istituzioni stanno facendo anche di questi gruppi neonazisti. Beh sì, diciamo che riferendomi al dibattito mainstream verifichiamo il fatto che, ad esempio, il battaglione Azov, che è uno con i cui simboli il 23 aprile gli ucraini si sono presentati a contestare l'iniziativa di piazza, da essere riconosciutamente un battaglione paramilitare di chiara ispirazione banderista, oggi sono equiparati ai bravi ragazzi nazionalisti che difendono il suolo patrio e che si oppongono alla barbarie dell'invasione russa. È chiaro che questa rielaborazione in qualche modo ripulisce l'immagine e sdogana il fatto che si possa essere nazionalisti, banderisti, nazisti solo in virtù del fatto di doversi opporre all'invasione russa. È chiaro che una riflessione così banale ci pone il problema di, in Europa, di riabilitare la cultura nazista, quindi è un tema che dobbiamo mettere al centro. Con il fatto che per il secondo anno consecutivo l'amministrazione di Bologna concede la piazza del primo maggio ai patrioti altrettanto di matrice fascista a Bologna, in Piazza della Pace, insomma, sapete tutti, questo è un problema. Il fatto di provare a normalizzare l'estremismo di destra anche nella nostra città, che era comunque uno degli ultimi baluardi, anche dal punto di vista della memoria, convintamente antifascista, ci pone un problema di ricentrare una narrazione che non annacqui le cose e che ci rimetta al centro sul piano dell'antifascismo. Noi pensiamo sia un bel clima questo qui. Stiamo ragionando con gli avvocati di fare degli esposti, delle denunce, ma soprattutto vorremmo che sul piano pubblico movimenti, associazioni, sindacati si trovassero per valutare correttamente la fase in cui siamo, a partire da una serie di segnali che ci sono. Questo del 23 aprile, del 1 maggio, sono episodi iscritti in un contesto più ampio che è dato sicuramente anche dalla guerra, dalla polarizzazione, e capire come riattualizzare l'antifascismo, dialettizzarlo e metterlo a confronto con quelle che sono le nuove minacce.